place of our commendations. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Natale in America. Natale in America, e che Natale in America, memorabile per diversi motivi, alcuni dei quali vanno accreditati a quello che forse è davvero Babbo Natale, dobbiamo ricrederci, mi sa che Babbo Natale esiste, ha una bella età, come è giusto che abbia Babbo Natale, ne ha fatti specie 92 anni e di secondo lavoro fa il senatore democratico del West Virginia, ha anche un nome e cognome, mica si chiama Babbo Natale veramente, si chiama Robert Byrd ed è per l'appunto il decano del Senato americano che questa mattina, guardatevi le foto, tra l'altro è anche il violinista che avete ascoltato in sottofondo, no? Di terzo lavoro, oltre che Babbo Natale senatore, suona il violino country come naturalmente fa chiunque sia nato e cresciuto nel West Virginia, la terra dei Monti Appalachi, no? Lì è proprio il cuore della radice culturale più profonda d'America. Comunque Robert Byrd stamattina in sedia a rotelle, le foto sui siti americani sono straordinarie, con il colbacco in testa, un'enorme sciarpa bianca, un'aria non proprio entusiasta, è stato trasportato, diciamo così, di peso da casa fino in Senato, perché era indispensabile che votasse come votano in Senato, mica con le urne, i bottoncini. Si agita la mano per dire sì e si fa pollice verso per dire nai, per dire no, per dire che non si è d'accordo con la proposta che si è appena ascoltata, e la proposta che si è appena ascoltata, e siamo felici di dirlo nella vigilia di Natale, ha una portata storica ed è l'approvazione al Senato della riforma della sanità in America, un passo epocale che probabilmente tra qualche anno si leggerà, si analizzerà sui libri, dopo che avverranno ancora tutte le complicatissime, importanti, indispensabili procedure per far sì che tutto ciò diventi realtà, ovvero diventi vita vissuta degli americani, e di fatto convergano i due progetti che per ora hanno raggiunto l'approvazione delle due Camere, perché sono due progetti diversi, sono due progetti basati anche su alcuni principi che non sono perfettamente collimati, ma di fatto, insomma, il mondo della politica e della governance americana ha detto sì a che cambi radicalmente uno dei pilastri più incerti su cui si sosteneva la politica del presente americano, ovvero l'assistenza sanitaria privata con tutto ciò che ne comportava. L'assistenza sanitaria resterà ad essere probabilmente tale, ma il diritto ad accedervi a questo punto assume una dimensione ben più orizzontale, e grazie anche agli altri programmi sanitari che sono in vigore in America può essere comparato con quello che una nazione come questa è degno che abbia nel XXI secolo. Quindi la stiamo facendo un po' lunga, perché la notizia è veramente di una grande portata, e il buongiorno agli americani, le televisioni, i siti dei giornali, dei grandi giornali lo danno proprio su questo argomento. Poi certo c'è la notizia, ecco ora ci sono delle immagini per esempio su Fox in cui si vedono gli ultimi senatori che frettolosamente, mi sembra di capire, stiano già togliendo le tende, perché poi hanno votato alle 7 di mattina, e certo ci viene un po', insomma, la motivazione, come dire, un po' più personalistica, no, del voto così presto. I senatori vengono naturalmente dai quattro angoli d'America e avevano fretta di tornare a casa per festeggiare la vigilia di Natale in famiglia, quindi si è fatto tutto, e si è fatto tutto prestissimo, perché a Washington adesso sono le 7:30 e mi sembra di capire che il dente se lo sono tolto. 60-39 è l'esito del voto, che quindi si oppone a qualsiasi forma di ostruzionismo, perché questa è la cifra che fa sì che non possa esistere un ostruzionismo da parte della minoranza. Molti ringraziamenti, abbracci e baci al senatore Byrd, che è stato rimandato rapidamente a casa. Peraltro era già pronto un sostituto del senatore Byrd che ne pigliasse il posto come rappresentante senatoriale legittimo della West Virginia nel caso succedesse qualcosa. Insomma, però le cose per Barack Obama sono andate, e la sua amministrazione sono andate per il verso giusto. Ora si entra in una fase procedurale, ma insomma la questione sembra veramente in addirittura d'arrivo, e questo ci porta ad aprire una pagina che in questa puntata così, in cui dobbiamo un po' cercare di capire i bilanci insieme alla porta del Senato americano che si sta per chiudere di questa annata di governo, ci sembra assai importante. Dobbiamo parlare insomma di promesse. And it's my fervent hope and my heartfelt expectation that next Thanksgiving we will be able to celebrate the fact that many of those who've lost their jobs or back. Insomma, l'uomo davanti alle sue promesse. L'uomo è Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America. Le promesse sono quelle che ha pronunciato durante due lunghi, interminabili, eroici, eccezionali anni di campagna elettorale e durante un insediamento e poi un inizio di governo alla Casa Bianca. Promesse importanti che hanno cominciato a plasmare, a modificare un'immagine dell'America all'interno e un'immagine dell'America all'esterno, verso il mondo. Il primo ragionamento in fondo ce lo possiamo fare un po' da soli, no? Facendo due calcoli e cercando un po' di capire, riassumere, proprio di digerire questo grande cambiamento americano avvenuto durante il 2009 o comunque durante il passaggio 2008-2009, perché poi c'è stata la straordinaria coincidenza tra la elezione di Barack Obama e l'avvento della crisi economica e finanziaria in America, con il rivolgimento di certezze che sembravano davvero, davvero intoccabili. Obama, in una intervista al Washington Post, prova anche lui in prima persona a stendere un bilancio del proprio lavoro, del proprio passaggio in questo suo primo Natale da presidente, e dice che la sua priorità assoluta è stata quella di salvare il sistema finanziario dal collasso, e difende anche con grande vigore il testo della sua riforma finanziaria. Dice Obama: la percezione è che abbiamo ceduto a compromessi dolorosi per arrivare al testo finale, ma la realtà è diversa. Tutte le priorità che avevo indicato sono presenti nella legge del Senato. La sanità è un dato di fatto, la finanza è in salvo, il dato occupazionale sembra finalmente assumere un aspetto abbastanza incoraggiante. L'America sta remando fuori dalle terribili acque nelle quali si trovava a navigare solo 12 mesi fa, e insomma qualche credito in questa direzione va certamente attribuita anche al suo presidente, con poi nonostante i cattivi andamenti del progressivi del giudizio degli americani nei suoi confronti, questa storica riforma che sta arrivando al traguardo alla fine dei primi 11 mesi del suo mandato, e insomma mi sembra sinceramente non poco. E poi non mi sembra davvero non poco quello, ecco, stanno tra l'altro arrivando altre agenzie relative al passaggio al Senato. Harry Reid, che è il capo della maggioranza democratica, ha votato per sbaglio no alla riforma della sanità. Non voglio credere a ciò che leggo. Di fatto questo dice l'agenzia, però Reid si è subito corretto tra le risate dei colleghi e su ehi è il grido che fanno. Sì, vuol dire un arcaismo un po' snob del congresso americano. È stato messo agli atti, il lapsus del senatore è stato attribuito alla stanchezza dopo una maratona legislativa che ha costretto il Senato a restare riunito giorno e notte. Beh, ci credo. Harry Reid non è neanche un uomo giovane, è sicuramente un uomo che in questo momento sta peraltro in diretta televisiva su Fox. Forse possiamo provare a ascoltarlo, sentiamo che dice. Never before has the Senate found the resolve to make health insurance more affordable and health insurance companies more accountable until today. This is a victory for the American people. Questa è una vittoria per il popolo americano. Mai la sanità è stata così a portata di mano, è stata così a portata di tasca anche degli americani. Questa è quella famosa orizzontalizzazione di questo passaggio epocale della cultura sociale americana, che Harry Reid, che è un democratico, che è un progressista anche molto convinto, sta ora sottolineando. Spero non gli facciano domande sul suo lapsus nel corso del voto. Vi dicevo, un'altra cosa che va certamente sottolineato è quello che l'America ha fatto nel mondo in un'altra riforma anch'essa carica di difficoltà, di problematiche, che era quella della propria immagine di fronte a tutte le altre nazioni che a lungo l'avevano guardata come un faro. E anche su questo credo che, al di là dei fatti che possono essere poi elencati e facilmente scorsi su qualsiasi bilancio giornalistico, conti parecchio la percezione personale, cioè ciascuno di noi, se ha voglia, può fare mente locale sulla opinione che in un certo senso negli ultimi mesi ha finito per formarsi nei confronti della condotta degli Stati Uniti nel mondo, per il bene del mondo e non per il bene d'America. E credo che anche qua un mutamento sia rilevabile in modo piuttosto netto, in modo piuttosto chiaro. Poi ci sono naturalmente le cose che sono andate male, e a me le cose che sono andate male verrebbe voglia di condensarle in una sola singola parola: Copenaghen. Perché ogni volta che Obama va a Copenaghen prende formidabili sberle, lo ha fatto ed è una sconfitta assai dimenticabile, cercando di portare le Olimpiadi 2016 nella sua Chicago. E tutto sommato gli americani a un certo punto avranno anche detto: ma chi se ne frega, insomma, pazienza. Ma è invece una cosa che assume un peso ben diverso in relazione, diventa veramente un'ombra del governo di Barack Obama in relazione al summit sulla situazione climatica e ambientale degli scorsi giorni. Ha detto Obama: penso che la delusione della gente sia assolutamente giustificata. E quel che ho detto è che, anziché vedere un completo collasso del negoziato a Copenaghen con un totale nulla di fatto, almeno abbiamo ottenute alcune posizioni e non si sono fatti troppi passi indietro. Certo, una posizione piuttosto difensivistica, no, per il leader del paese più influente del mondo a fronte di un tema sul quale molto si era speso. Comunque diciamo che la promozione per Barack Obama è concordata un po' da tutti gli osservatori. E certamente il risultato di oggi, che ripeto cambia veramente il modo di vita degli americani, lo sapranno loro e lo potremo capire noi osservandoli nei prossimi mesi, è un dato aggiuntivo che definirei decisivo. Vi dico un'ultima cosa facendovi ascoltare una breve news, perché è un altro arrivederci. Rudy Giuliani will not run for the US Senate next year against Democratic. Insomma, uno dei personaggi a cui ci eravamo abituati come protagonista fisso, no, della soap opera del potere americano, ha detto praticamente arrivederci e grazie una volta per tutti. Ha fatto una conferenza stampa di grande malinconia e anche fin troppo spartana, hanno osservato i giornalisti, in un basement di un albergo. C'era pure poca gente, assolutamente poca, nessun glamour attorno all'evento, e ha detto che non correrà per nessuna carica delle imminenti elezioni a medio termine del 2010, non cercherà il Senato, non cercherà posti di governatore, e quindi, come hanno dedotto immediatamente i giornalisti, questo vuol dire che non correrà neanche nel 2012. Lui ha dato una giustificazione che, guarda caso, ha proprio ancora una volta una finalità olimpica. Ha detto: ma guardate, la motivazione è in tre nomi: Braswell and Giuliani e i Giuliani Partners. Sono due ditte di consulenza a cui devolvo in questo momento tutto il mio tempo lavorativo, e una di esse è diventata il partner principale, il consulente più importante per la sicurezza e molte altre cose delle Olimpiadi che si svolgeranno in Brasile. Lavoro da privato, faccio un sacco di miliardi. Quello che devo fare come pubblico servitore l'ho fatto, e quindi ha alzato il cappello col suo stile, che devo dire francamente non ci è mai dispiaciuto, anzi ci ha sempre molto divertito, e in quel basement un po' freddo di un albergo ha detto arrivederci e buon Natale. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixing and blixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear the sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Buongiorno America. The Volturi are the closest thing my world has to royalty. They enforce the law. Vampires have laws. You're a human who knows entirely too much about us. Questa è Twilight. Questo è Twilight che sono sicuro abita ormai stabilmente nelle case di molti di voi, volenti o nolenti. C'è sempre un Twilight dietro l'angolo, basta che ci sia qualsiasi cosa vivente fra i 7 e i 18 anni. Twilight è lì. Lo usiamo come introduzione questa puntata della vigilia per fare qualche piccola esplorazione da profeti. Usiamo naturalmente profeti americani molto accreditati, quelli di magazine come New York o Newsweek, che provano a disegnare che cosa succederà nel 2010. E ci sono per esempio tante predizioni culturali su dove andranno le tendenze culturali del 2010. Noi ne abbiamo colte giusto un paio perché ci sembravano molto divertenti e anche perfettamente percepibili da questa parte dell'oceano. Una sostiene che certamente, pensate al terzo posto delle predizioni culturali di Newsweek, certamente i coniugi Salai, quelli che sono riusciti a entrare non invitati a una cena di gala alla Casa Bianca, avranno certamente il loro reality show. Si chiamerà forse Le vere casalinghe del distretto di Columbia, oppure si chiamerà come entrare a un party senza essere invitati, ma gli esperti sono pronti a scommettere che, superati i guai legali, magari col sostegno di un network, i Salai approderanno al loro show, magari anche in prime time. L'altra tradizione culturale invece riguarda per l'appunto Twilight, per la precisione Stephanie Meyer, che è la creatrice di Twilight, della serie di libri. Anche lei una casalinga un po' disperata, vuole la leggenda che scrivesse questi volumetti mentre c'aveva i bambini che le frignavano attorno. Adesso è una multimiliardaria, sicuramente dotata di uno staff di babysitter, e quindi può dedicarsi a scrivere. E al primo posto della classifica delle predizioni culturali per l'America, ma secondo me per il mondo, nel 2010 c'è la certezza che Stephanie Meyer riuscirà a far innamorare il mondo non più dei vampiri ma degli zombie. E presa, come dire, presa nota di tutto ciò, passiamo alle previsioni politiche. Ovvero, che succede, che dovrebbe succedere, tanti piccoli fatti che sono prevedibili nella America politica del 2010. Uno riguarda proprio questo signore che abbiamo appena sentito parlare, molto molto affascinante. Si chiama Marco Rubio ed è un politico tra i più emergenti del panorama programma nazionale americano, ma in particolare della Florida, e sta cercando di togliere il posto a uno dei personaggi invece più importanti del panorama nazionale americano e soprattutto della Florida, che è Charlie Crist, il governatore dello Stato, uno di quelli che è veramente vicinissimo a una nomination anche per la Casa Bianca sotto i colori repubblicani. Ebbene, predicono quelli che la sanno lunga che alla fine Crist darà un calcio nel sedere a Marco Rubio e lo manderà sicuramente a fare anche lui un talk show in televisione, perché è veramente un bello metto, come si dice, però non c'è la credibilità necessaria per dargli in mano uno Stato importante in America come la Florida. Vediamo altre predizioni. Si predice per esempio che Obama, che come abbiamo visto ha molti successi ma anche molti insuccessi, dovrà mettere nella parte scura della lavagna i diritti gay, i diritti omosessuali. La predizione di Newsweek è che Obama, alla fin fine nel 2010, molto implorato, molto supplicato, molto auspicato e anche molto pressato affinché produca qualcosa di costruttivamente progressista per i diritti gay in America, sull'argomento passerà, perché le tensioni attorno alla questione sono molto forti, perché c'è una votazione a novembre su cui si decide il formato del Senato e ci sono delle regole di centrismo da rispettare, e quindi no way per i gay, dicono i bene informati. Invece è probabile una seconda scelta per la Corte Suprema ad opera di Barack Obama. Ci sono dei nomi, c'è la quasi certezza che si dovrebbe trattare ancora una volta di una donna. C'è la giudice Ruth Bader Ginsburg, che è molto vicina a lasciare, e c'è una nomination che riguarda Diane Wood, già utilizzata nel corso della prima nomina alla Corte Suprema di Barack Obama, che viene indicata come la più probabile. Wow, that really sounded familiar, because I talked in my book too about the fallen nature of man and why war is necessary. Le previsioni sono cattive, ma cattive nel senso non che le va male, ma nel senso che sono un po' spietate nei confronti di Sarah Palin. Quelli che la sanno lunga di Newsweek sostengono che Sarah Palin nel 2010 non avrà un ruolo politico determinante, ma invece avrà uno straordinario, formidabile e imparagonabile successo con il suo nuovo talk show. La vedremo sicuramente in televisione, diventerà praticamente la nuova Oprah Winfrey, sebbene naturalmente colorata di pensiero conservatore da Right America, ma poca corsa per le sue ambizioni politiche. Tra l'altro è uscita poco fa un'altra agenzia che riguarda Sarah Palin, che per l'appunto ormai si muove in termini fortemente mediatici, e chiede giustizia a Barack Obama, in tutt'altre cose affaccendato in questo momento, perché alcune delle cose dette da Obama nel suo discorso risuonerebbero con quelle scritte da Sarah Palin nel suo libro. Ma naturalmente, insomma, almeno per il Nobel Sarah Palin dovrà aspettare, mentre guarda molto molto in alto un'altra signora della politica americana. I thank the president for his tremendous leadership, because without President Obama in the White House, this victory would not have been possible. Ed è Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, ci sono due previsioni per i due leader delle due camere americane su queste profezie del 2010 prodotte da Newsweek. Una è che il partito repubblicano riuscirà a mandare a casa Harry Reid, il capo del Senato, della maggioranza al Senato. Lo abbiamo appena sentito parlare, tra l'altro, a margine del successo di Barack Obama. L'altra è che Nancy Pelosi invece manterrà la propria posizione alla Camera, perché naturalmente già lì si comincia a guardare a che cosa a novembre succederà, come si ridisegnerà il potere politico americano da novembre in poi, cosa sarà successo fino a quel momento e che cosa succederà da quel momento in poi. Storie naturalmente da seguire e da raccontare. It asked Falcon, did you hear us calling your name at any time? You did? You did? Why didn't you come out? Noi ogni tanto la risentiamo perché ci viene così nostalgia della storia del Balloon Boy, il ragazzino che i genitori raccontavano essere scappato su una mongolfiera. Vi diamo queste ultime notizie che sono veramente le spigolature di Natale, di un Natale americano. Beh, il Natale americano, il padre Balloon Boy lo passerà preparando la valigetta per andarsene in galera, anche se poi magari riuscirà a ovviare al pagamento della pena, perché è stato condannato a 90 giorni di galera per la spaventosa e anche un po' improvvida montatura che aveva montato, che aveva organizzato attorno al suo ragazzino per cercare a sua volta pubblicità e magari anche lui un reality show. Poi ancora notizie che arrivano a New York: Susan Sarandon e Tim Robbins si separano dopo 23 anni di vita di coppia, e gli americani sono sinceramente impressionati perché era una delle ultime irriducibili, e alla fine si lamentano i ristoratori di New York. Pare che New York non sia più New York, almeno sotto Natale c'è la neve, ci sono i pattinatori a Rockefeller Center, ma non ci sono più i banchieri miliardari che pagano le bottiglie di vino 200, 300, $400. Pare che al massimo ormai si paga il vino $80, di più si dice di no al sommelier. Tra l'altro il dollaro va giù, il vino va su. E New York rischia di non essere più New York, ma questo resta comunque Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi, la mail è buongiornoamerica@radio24.it. A tutti coloro che ci ascoltano, conoscono, annusano questa trasmissione o comunque vengono da queste parti su Radio 24, auguriamo un ottimo, sereno, costruttivo Natale 2009 e un magnifico 2010.